Attivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti a Obiettivo Salute. Insieme a voi iniziamo insieme una nuova settimana e facciamolo, cerchiamo di farlo con la predisposizione d'animo giusta. Quindi andiamo avanti proprio con che il nostro contributo può fare la differenza. Il contributo di ciascuno di noi è fondamentale e tutti insieme è proprio questo gioco di squadra che ci porterà fuori. Io so che questo è diventato un mantra, ma credo che ripetercelo ci possa fare bene, soprattutto a 349-238-6666, questo è il numero per rimanere in contatto, lontani ma vicini. Vi ricordo anche la mail obiettivosalute@radio24.it. Ci state scrivendo in molti per raccontarci la vostra quotidianità, i vostri dubbi, le vostre speranze, le vostre attese. Oggi parte un nuovo progetto, una nuova collaborazione con la SIMIT, la società di malattie infettive e tropicali, una sorta di, senza una sorta, proprio un vero e falso SARS-CoV-2 e sul Covid-19, che è l'infezione di cui questo virus è responsabile. Per questo vi chiedo, se avete qualche dubbio, un vero e falso da proporci, mi raccomando, scriveteci. Allora, intanto saluto subito il primo esperto di oggi, il primo ospite a trovarci è il professor Paolo Nucci, ordinario di oftalmologia all'Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, io sono con la mascherina, mi sentite? Sì, la sentiamo bene, è forte come si dice, è chiaro, e professor Nucci, abbiamo bisogno di lei. Occhi che lacrimano, bruciano, si arrossano, sintomi che in alcuni casi ci preoccupano, soprattutto quando si aggiunge la presenza magari di una secrezione al mattino, ci preoccupano soprattutto di questi tempi, perché noi sappiamo che porta d'ingresso del virus e la congiuntivite rientra nella sintomatologia del Covid, ma ci sono tante ragioni che possono spiegare questa sintomatologia e quindi, professore, sembra una battuta, ma le chiederei di aiutarci a vederci chiaro. Certo, allora intanto per fortuna, nonostante all'inizio si sia pensato che davvero l'occhio fosse la via d'accesso, lo è solo in rarissimi casi e anche la localizzazione congiuntivale non è poi così comune e oggi noi possiamo dirlo a giusta ragione come italiani perché ne abbiamo visti un po'. Quello che dobbiamo ricordare è che questa è stagione di allergie, quindi molto spesso un occhio che dà prurito, cioè da questa sensazione di doversi continuamente stropicciare, è molto più probabile che sia legato all'allergia, quindi al periodo. Secondo, tenete conto che il Covid non dà mai una secrezione, quindi quando vedete secrezione pensate sempre di più ad una forma batterica, una banale congiuntivite batterica. Terzo, è molto importante anche la lateralità. Quando si manifesta esclusivamente in un occhio è sempre bene andare dall'oculista, però è difficile che si tratti di una forma da Covid. Purtroppo la condizione invece che ci preoccupa di più è quella nella quale l'occhio è leggermente arrossato e c'è lacrimazione. Questo è abbastanza tipico delle forme virali, quindi non dico che può essere Covid, però è l'unica delle condizioni nelle quali io sarei un po' allertato. E se insieme a questo c'è anche quella sensazione di avere un fastidio nelle fauci, quello che normalmente abbiamo quando comincia ad esserci quell'inizio di raffreddore, beh, questo è un segnale sicuramente da comunicare al medico di famiglia. Professor Nucci, se lei è in una stanza da solo le chiederei di provare a togliersi la mascherina perché in alcuni momenti la sento, come si dice, un po' ovattato. Ovattato, professore, allora adesso mi sente meglio sicuramente. Bene, professor Nucci, noi passiamo tante ore davanti ai PC, tablet, smartphone. Ci dà qualche consiglio per prevenire la stanchezza o per evitare degli errori che possono magari poi alla fine slatentizzare alcuni problemi? Sì, allora intanto ricordiamoci che quando si sta molto tempo davanti al computer il film lacrimale non è più efficace, non riesce ad essere così lubrificante come dovrebbe. Quindi l'abitudine per chi sta molte ore davanti al computer, in questo periodo obiettivamente ci si sta tanto, è quella di avere una lacrima artificiale. Attenzione, parlo di lacrime artificiali che sono quelle prescritte dall'oculista. Non fidiamoci delle lacrime che in molti casi ci vengono date così come prodotto da banco, perché in molti casi si tratta soltanto di soluzione fisiologica, di acqua distillata. Invece la lacrima artificiale deve avere, come dire, subito un suo percorso anche di validazione, e generalmente sono quelle che l'oculista conosce e sa suggerire. Secondo, cerchiamo di fare delle pause sempre, anche perché il fenomeno accomodativo, cioè questo fatto di lavorare sempre a distanza prossima, 50 centimetri, 60 centimetri, comporta per l'occhio uno sforzo. Quindi ogni ora teoricamente dovremmo riuscire ad avere una pausa di 5 minuti, e dato che riusciamo a stare a casa, prendiamo l'occasione anche di affacciarci un po' dalla finestra. Ecco, approfittiamone. Approfittiamone perché non c'è inquinamento. Io per la prima volta sento uccellini la mattina e profumo che non sentivo da molti anni. Professor Nucci, io vorrei che lei ci scattasse una fotografia della situazione che sta vivendo. Ha bambini piccolissimi, professor Nucci, che non possono essere rimandati, non dovrebbero essere rimandati. Professor Nucci, in occasione della, in vista della ripresa, che cosa si sta augurando? Guardi, io tra 2 giorni opererò un bambino molto piccolo di 5 settimane per una cataratta congenita. Sono condizioni che non possono essere in nessun caso rimandate. La preghiera è quella di capire che il paziente comunque rimane paziente, ha bisogno di tornare negli ospedali, quindi liberiamo presto gli ospedali. Se abbiamo costruito delle realtà dove possiamo spostare giustamente i malati che hanno problematiche importanti, riapriamo le attività degli ospedali. Questa è una preghiera che faccio e che spero sia ascoltata, perché io che mi occupo di bambini so che il ritardo può essere davvero drammatico in molti casi. Professor Nucci, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e ci sentiamo presto. Grazie Nicoletta, buon lavoro. E oggi si unisce a noi il professor Andrea, che è in linea con noi, già professore dell'Imperial College di Londra e direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova. Professore, grazie. Grazie a lei, buongiorno Nicoletta, buongiorno. Professor Crisanti, il suo nome dai media, ma anche proprio nell'immaginario collettivo, è associato a SUVO e al cosiddetto modello Veneto, di cui lei è stato ideatore e regista. Sicuramente ne è consapevole, ma inizierei proprio con questa nostra chiacchierata, obiettivo salute insieme a voi è una sorta di casa, quindi un po' chiedendole che effetto le fa. Ma guardi, senta, io cerco di rifuggire a questa notorietà, in genere non guardo mai le interviste e non leggo mai i commenti, cerco più che altro di concentrarmi su quello che faccio, sul lavoro, perché altrimenti uno non perde il contatto con la realtà, e io veramente ci tengo molto a rimanere me stesso, quello che ero quando sono venuto dall'Inghilterra. Professore, l'esperienza di VOO, in cui lo ricordiamo avete preso atto che il 40% dei positivi era asintomatico e che anche tra gli asintomatici potevano infettare gli altri, che cosa insegna e quali indicazioni può dare per... Ma guardi, il modello di VOO ha rappresentato un punto importante nella comprensione di questa epidemia, perché ci ha fatto capire che non soltanto le persone che stavano male potevano essere contagiose, ma anche gli asintomatici, e questo chiaramente ci ha anche permesso di cambiare in qualche modo la strategia. Noi abbiamo infatti fatto il tampone non solo a quelli che stavano male, l'abbiamo fatto ai parenti, li abbiamo fatti agli amici, li abbiamo fatti a tutte le persone che si sono presentate, che hanno detto che erano dei contatti, e adesso proprio in questi giorni invece iniziamo una campagna di aggressione al virus, andando a casa delle persone che ci telefonano che stanno male, perché vogliamo fare il tampone ai familiari, vogliamo fare il tampone ai vicini di casa e a tutti i contatti, perché se queste persone si sono ammalate è lì che si annida la persona che gli ha passato la malattia. Poi Vo rappresenta anche un modello importante per aggredire focolai quando sicuramente si presenteranno di nuovo, quando in qualche modo si aprirà questa cosiddetta fase 2 e tutti quanti potranno rimuoversi, perché il rischio che si ripresentino è estremamente elevato e quindi questo ci dimostra come è possibile eliminarli. Professore, ma quali sono gli elementi che hanno fatto del modello Veneto un modello di successo per il contenimento del virus? Io ne ho individuato tre, iniziano tutte e tre con la T. Tamponi e territorio. E se questo è vero, quanto queste tre T sono importanti nell'organizzazione e nella gestione della ripresa? Ma io penso che siano fondamentali, in modo particolare aumentare la capacità di fare tamponi è essenziale per monitorare diverse situazioni in cui ci sono diciamo assembramento o diciamo punti di riunione, che possono essere fabbriche, possono essere negozi, possono essere qualsiasi altra attività. È chiaro che queste persone bisogna in qualche modo avere la capacità di capire se ci sono delle persone a rischio e se queste persone a rischio sono infette e possono trasmettere. Questo si può fare solo attraverso aumentando la capacità di fare diagnosi e di fare tamponi. E devo dire qui la Regione Veneto negli ultime settimane ha fatto veramente degli investimenti molto coraggiosi per dotare quasi tutte le aziende ospedaliere di questa capacità. Quindi ecco, io aggiungerei anche flessibilità a questo che lei aggiunge, perché la flessibilità in un'epidemia, che è una cosa che non si è mai vista, è importante, perché in qualche modo la flessibilità ti dà capacità di reazione, no? E ti permette anche di adattarti. Flessibilità è anche capacità di adattamento e capacità di reazione, quindi penso che questo pure è stato un elemento importante. È un elemento importante, una parola chiave anche per tutti noi, per ormai è chiaro che la ripresa non sarà una passeggiata. Professore, che cosa dobbiamo aspettarci e a che cosa dovremmo abituarci noi cittadini? Ma ecco, io penso che noi dovremmo aspettarci a un processo lungo, a un processo fatto di piccoli stop and go, perché chiaramente c'è di fermate e accelerazioni, perché chiaramente è una cosa che impareremo tutti quanti via via che il processo evolve. Penso che sarà necessario, importante e fondamentale sarà la collaborazione di tutti quanti, perché dobbiamo veramente avere la disciplina di mantenere il distanziamento, di fare le file, di utilizzare le mascherine, di adottare delle misure di costantemente di igiene, quindi lavarsi le mani, lavarsi e tutte queste attività che contribuiscono. Guardi, ogni piccola cosa di questo che ho detto aiuta a diminuire questo famoso R0, cioè quella capacità del virus di infettarsi e di muoversi da una persona all'altra. Quindi, professore, questo famoso R0, siamo a buon punto del punto in cui siamo arrivati? La fermo perché dobbiamo andare a fare il punto sulle situazioni, sul traffico, e ritorniamo subito dopo insieme con il professor Andrea Crisanti con noi a Obiettivo Salute insieme a voi. A tra poco. Aiutiamo Il Sole 24 Ore insieme a Radio 24 e Radio Cor sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Obiettivo salute. Siamo tutti insieme in linea con noi e abbiamo il piacere oggi di avere il professor Andrea Crisanti, già professore dell'Imperial College di Londra e direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova. Professor Crisanti, ci stiamo avvicinando al 4 maggio, in queste due settimane. Che cosa dobbiamo fare e che cosa dobbiamo aspettarci? Ma guardi, io penso quello che dobbiamo fare, dobbiamo prepararci a questa data e, come avevo detto, la cosa più importante è prepararci, significa aumentare la nostra capacità appunto di fare diagnosi. Per quanto riguarda noi personalmente, penso che c'è sicuramente una grande attesa da parte di tutti, ecco, però io penso che non è che il 4 maggio improvvisamente usciamo di casa e potremo fare tutti, ecco, non accadrà questo. Con questo, ecco, possiamo metterci l'anima in pace, quindi penso che sarà, come ho detto prima, una fase lenta in cui via via ci riapproprieremo delle nostre sfere di interazione, della nostra libertà, ma tanto più prudenti saremo, più lontano andremo, ecco. Questo è la cosa che dobbiamo fare, è pensare di non abbassare la guardia, perché purtroppo il rischio che l'epidemia possa riprendere con qualche focolaio e addirittura anche in maniera un po' più stesa in qualche parte, purtroppo è un rischio estremamente elevato. Quindi, come ho detto prima, sarà fatta di tanti passi in avanti e anche qualche passo indietro, e quindi ci vuole pazienza, ecco, questo penso che sia la cosa più importante. Io ho sempre detto, bisogna dire la verità, e la verità è questa, e sicuramente penso e spero che il tempo e la stagione calda possa in qualche modo aiutare ad abbattere la trasmissione, questo famoso R0 di cui avevamo parlato prima, che misura la capacità riproduttiva del virus, cioè quante persone, se io sono infetto, riesco a infettare, no? Quindi tutte le misure che noi abbiamo imparato in questi giorni non ce le dobbiamo dimenticare, perché anzi le dovremmo usare, perché sono più sempre queste misure, professore, che abbassano questo indice di contagiosità? È certo. Se io metto la mascherina, impedisco al virus di passare questa barriera, e se la mette il mio interlocutore, di fatto anche lui è protetto. Noi, guardi, in ospedale abbiamo diverse esperienze di personale che era infetto e che portava la mascherina, non ha infettato nessuno che lo circondava perché anche le altre persone portavano la mascherina, ecco, quindi questo lo voglio ribadire, è importantissimo indossarla, non trascurare questa cosa, anche i guanti e così via, ecco, io, ecco, questo è che voglio dire, dobbiamo far tesoro dell'esperienza che abbiamo fatto adesso, perché ci servirà moltissimo. Professore, noi non vediamo l'ora che questo periodo finisca, ma diciamocela tutta, l'idea che inizi una nuova fase un po' ci fa paura. Per lei, professore, pensando alla ripresa, che cosa la lascia tranquillo e invece che cosa genera in lei preoccupazione e timore? Guardi, mi lascia tranquillo aver visto la disciplina e la coesione della risposta degli italiani a questa emergenza. Devo dire la verità, passeggiare per Padova, che la vedevo così affollata e vibrante di vita, tutta deserta, da una parte mi induce tristezza, però da una parte mi dà anche un po' d'orgoglio, perché vedo che i cittadini di questa città, e penso di anche altre città d'Italia, hanno risposto veramente con grande coesione e disciplina. Ecco, quindi questo sicuramente mi incoraggia. Mi fa un po', diciamo, preoccupazione, perché vedo che questa fase di ripresa è ancora un po' caotica, diciamo, ancora non si capisce bene che direzione deve prendere, diverse regioni vanno in ordine sparso. Ecco, insomma, mi piacerebbe vedere un piano nazionale, ecco, io lo dico sinceramente. Anche a noi, almeno io parlo per me, anche a me. Professor Crisanti, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata e un buon lavoro, spero di sentirla presto. Arrivederci. Grazie. E come anticipato, oggi si apre un nuovo spazio in collaborazione con la SIMIT, che è la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, un nuovo appuntamento che proseguirà anche sulle pagine Facebook di Obiettivo Salute, per il quale, come sempre, chiedo la vostra collaborazione. L'abbiamo chiamato Vero e Falso perché vogliamo fare chiarezza su notizie che ancora circolano sul virus e anche quindi smascherare bufale e leggende metropolitane. Aiutateci anche voi, scriveteci a Obiettivo Salute @radio24.it. Oggi in linea con noi è tornata a trovarci la professoressa Paola Cinque, infettivologa presso l'unità di malattie infettive dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Professoressa Cinque, buongiorno. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Allora, sono molto contenta di inaugurare con lei questo spazio, il vero e falso. Allora, iniziamo subito, professoressa Cinque. L'infezione da coronavirus si può curare con gli antibiotici, vero o falso? Ma io direi che falso, molto falso, perché l'infezione da coronavirus è causata da un virus e i virus non rispondono agli antibiotici, che invece vengono utilizzati per curare le infezioni batteriche. Ci sono anche delle polmoniti batteriche, ma non è questo il caso. Dunque uno può dire, però io avevo il coronavirus, ho avuto una polmonite e ho preso gli antibiotici. Questo è vero invece, perché soprattutto nel territorio, quando una persona ha dei sintomi respiratori da coronavirus e ha verosimilmente una polmonite, il medico di base, nella difficoltà, anzi talora proprio nell'impossibilità di prescrivere degli esami diagnostici, degli esami del sangue, una lastra del torace, una TAC, spesso o quasi sempre prescrive gli antibiotici, perché comunque non puoi escludere che non sia coronavirus o sia una polmonite batterica, oppure che insieme al coronavirus ci sia anche un batterio che potrebbe peggiorare i sintomi. Però questo non significa che gli antibiotici sono la cura per il Covid. Non sono assolutamente la cura, perché il Covid è causato da un virus e i virus rispondono a altri farmaci, che sono farmaci antivirali, e non sono gli antibiotici, ripeto, che sono per le infezioni da batteri. Professoressa Cinque, andiamo al secondo vero e falso. Essere vaccinati contro l'influenza può aiutare a prevenire l'infezione da coronavirus, vero o falso? E anche questo è un bel falso, magari fosse così, perché comunque le persone più a rischio, che sono le persone più anziane o con qualche problema di salute, in genere sono state vaccinate, qui in Italia almeno per i virus influenzali. È falso perché le vaccinazioni ci vengono somministrate per che il nostro sistema immunitario sviluppi degli anticorpi o delle difese immunitarie più in generale verso quello specifico agente virale o batterico, insomma, della vaccinazione. Però vaccinarsi per un virus non vuol dire proteggersi anche per un altro virus. Quando ci sarà e ci sarà una vaccinazione verso il coronavirus, chi riceverà il vaccino sarà protetto per virus SARS-CoV-2 piuttosto che per diversi coronavirus, ma difficilmente, anzi improbabilmente, sarà coperto per altri virus, tra cui il virus dell'influenza. Sono quindi vaccini molto molto specifici. Professoressa Cinque, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Naturalmente questi due vero e falso li trovate anche sulla pagina di Obiettivo Salute, che vi invito a visitare e a frequentare assiduamente. Ringrazio Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Giorgio De Luca in assistenza, Laura Vanossi in redazione, e vi do appuntamento a domani. Buona giornata da Nicoletta.